Uno degli astri del salotto era in piena crisi, che, malgrado i suoi gusti sportivi, si era fatto riformare. Era diventato così completamente ai miei occhi l'autore di un'opera ammirabile alla quale pensavo di continuo che solo in modo fortuito, quando si stabiliva una corrente trasversale fra due serie di ricordi, realizzavo che era lo stesso a causa del quale Albertine se n'era andata da casa mia. E andava poi a sfociare, questa corrente trasversale, quanto a reliquie dei ricordi di Albertine, in una pista che s'arrestava in piena sodaglia a parecchi anni di distanza. Ormai, infatti, non pensavo più a lei. Era una pista di ricordi, una linea che non prendevo più, mentre le opere di In piena crisi erano recenti e la relativa linea di ricordi era perpetuamente frequentata e utilizzata dalla mia mente. Debbo dire che far la conoscenza del marito di André non era né molto facile né molto gradevole, e che l'amicizia che si poteva avere per lui era votata a molte delusioni. Già allora, in effetti, era molto malato e si sobbarcava unicamente alle fatiche da cui gli sembrava che potesse derivargli un po' di piacere, e classificava come tali soltanto gli incontri con persone che non conosceva ancora e a cui la sua ardente immaginazione attribuiva qualche possibilità d'essere diverse dalle altre. Per quelle, invece, che conosceva già, sapeva troppo bene com'erano, come sarebbero state. Non gli sembrava che valessero la pena d'una fatica per lui rischiosa, forse mortale. Era, insomma, un pessimo amico. E forse nel suo preferire gente nuova si ritrovava qualcosa dell'audacia frenetica con cui in altri tempi, a Balbec, si dava allo sport, al gioco, a tutti gli eccessi della tavola. Quanto a Madame Verdurin, ogni volta voleva presentarmi André, non potendo ammettere che la conoscessi. André, d'altronde, accompagnava raramente suo marito. Per me era un'amica magnifica e sincera. Fedele all'estetica di suo marito, che era contro i balletti rossi, diceva del marchese di Polignac: «Si è fatto sistemare la casa da Bakst. Non capisco come ci si possa dormire, io preferirei Dubuff». Del resto, i Verdurin, per il progresso fatale dell'estetismo che finisce col mangiarsi la coda, dicevano di non poter sopportare né il modern style, oltretutto era di Monaco, né gli appartamenti bianchi e amavano ormai solo i vecchi mobili francesi in un ambiente scuro. In quel periodo vidi molto André. Non sapevamo cosa dirci. E una volta pensai a quel nome, Juliette, che era salito dal fondo dei ricordi di Albertine come un fiore misterioso. Misterioso allora. Oggi, invece, non suscitava più niente. Mentre parlavo di tanti argomenti indifferenti, di quello tacqui. Non perché lo fosse più di altri, ma perché c'è una sorta di sovrasaturazione delle cose cui si è pensato troppo. Forse ero nel vero nel periodo in cui ci vedevo tanti misteri, ma poiché tali periodi non sono destinati a durare per sempre, non bisogna sacrificare la propria salute, il proprio patrimonio alla scoperta di misteri che un giorno non ci interesseranno più. Ci si stupì molto in quel periodo in cui Madame Verdurin poteva avere a casa sua chiunque volesse, vederle fare indirettamente delle avances a una persona che aveva completamente perduta di vista. Odette. Si pensava che Madame de Faucheville non avrebbe potuto aggiungere nulla all'ambiente brillante in cui si era trasformato il piccolo gruppo, ma una separazione prolungata, oltre a sopire i rancori, risveglia a volte l'amicizia. Inoltre, il fenomeno per cui i moribondi pronunciano soltanto nomi un tempo familiari e i vecchi si cullano nei ricordi d'infanzia, questo fenomeno ha un equivalente sociale. Per riuscire nell'impresa di far tornare Odette da lei, Madame Verdurin non si servì, ben inteso, degli entusiasti, ma degli abitué meno fedeli, che avevano tenuto un piede in entrambi i salotti. A costoro diceva: «Non so perché non si faccia più vedere. Forse è arrabbiata lei? Io no. In fin dei conti, che cosa le ho fatto? È stato a casa mia che ha conosciuto i suoi due mariti. Se vuol tornare, sappia che troverà le porte aperte». Queste parole, che sarebbero costate all'orgoglio della padrona se a dettargliele non fosse stata la sua immaginazione, furono riferite, ma senza successo. Madame Verdurin attese Odette senza vederla arrivare finché certi avvenimenti di cui si parlerà più avanti non determinarono per tutt'altre ragioni ciò che non aveva potuto la pur zelante ambasciata degli incostanti. Tanto poco frequenti sono sia i facili successi sia i fallimenti definitivi. Diceva Madame Verdurin: «Che guaio! Telefonerò a Bontemps che faccia il necessario per domani. Hanno tagliato un'altra volta tutta la fine dell'articolo di Norpois e solo perché lasciava intendere che hanno silurato Person». La stupidità corrente, infatti, induceva tutti a farsi un vanto d'usare espressioni correnti e a credersi alla moda, come le borghesi che, parlando del signor di Broté, del principe d'Agrigento o di Charlus, domandano: «Chi? Babal de Broté, Grigri, Mémé de Charlus?» Le duchesse d'altronde fanno lo stesso e provavano lo stesso piacere dicendo silurare, perché nelle duchesse, per i plebei un po' poeti, è il nome a fare la differenza, ma loro si esprimono secondo la categoria intellettuale a cui appartengono e che condividono con un gran numero di borghesi. Le classi intellettuali non hanno nulla a che vedere con la nascita. Questo gran telefonare di Madame Verdurin non era peraltro privo di inconvenienti. Anche se ci siamo dimenticati di dirlo, il salotto Verdurin, pur continuando in pienezza di spirito e di verità, si era momentaneamente trasferito in uno dei più grandi alberghi di Parigi, giacché la mancanza di carbone e di luce rendeva più difficili i ricevimenti dei Verdurin nell'ex dimora, parecchio umida, degli ambasciatori di Venezia. Il nuovo salotto non mancava, del resto, di attrattiva. Come a Venezia, lo spazio, limitato a causa dell'acqua, determina la forma dei palazzi. Come un pezzetto di giardino a Parigi incanta più d'un parco in provincia, così la stretta sala da pranzo di cui Madame Verdurin disponeva in albergo faceva d'una losanga dalle pareti abbaglianti di candore una sorta di schermo su cui si profilavano ogni mercoledì e quasi tutti i giorni le persone più interessanti, più varie, le donne più eleganti di Parigi, felici da approfittare del lusso dei Verdurin, in crescita come il loro patrimonio in un momento in cui anche i più ricchi limitavano le spese, non potendo disporre delle proprie rendite. Benché la forma dei ricevimenti fosse modificata, questi non avevano smesso di estasiare Brichot, che a mano che le relazioni dei Verdurin si ampliavano, vi trovava nuovi piaceri accumulati per di più in un piccolo spazio come sorprese nella calza della Befana. Ma c'erano giorni in cui i commensali erano così numerosi che la sala da pranzo dell'appartamento privato diventava troppo piccola e il pranzo veniva servito nell'immensa sala da pranzo a pian terreno, dove i fedeli, pur fingendo ipocritamente di rimpiangere l'intimità delle altre sere, allo stesso modo che la necessità di invitare i cambrémère faceva dire un tempo a Madame Verdurin che si sarebbe stati troppo stretti, erano in fondo felici, anche se facevano gruppo a sé, come un tempo sul trenino, d'essere oggetto di spettacolo e di invidia per i tavoli vicini. Certo, in normali tempi di pace un trafiletto mondano inviato di soppiatto al Figaro o al Gaulois avrebbe fatto sapere a più gente di quanta ne potesse contenere la sala da pranzo del Majestic che Brichot aveva pranzato con la duchessa di Duras. Ma da quando c'era la guerra? Poiché i cronisti mondani avevano soppresso questo genere di informazioni, anche se si rifacevano con i funerali, le citazioni all'ordine del giorno e i banchetti franco-americani, la pubblicità non poteva più esistere che in quella forma infantile e limitata, degna delle epoche primitive e anteriore alla scoperta di Gutenberg, essere visti alla tavola di Madame Verdurin. Dopo pranzo si saliva nei salotti della padrona e cominciavano le telefonate, ma molti grandi alberghi a quei tempi pullulavano di spie che prendevano nota delle telefonate di Bonton con un'indiscrezione corretta soltanto, per fortuna, dalla mancanza di serietà delle sue informazioni, sempre smentite dagli avvenimenti.